siamo reduci da già un paio di giorni di questa ordinanza che ha costretto molti circoli, molti locali, molti club a sospendere tutte le attività, concerti e iniziative che prevedono l'afflusso di pubblico, e questo naturalmente sta comportando dei disagi economici e lavorativi molto, molto importanti. E abbiamo visto che si iniziano a radunare, a riunire dei tavoli con i sindacati per affrontare le difficoltà delle aziende e dei lavoratori. Ci piacerebbe che venissero prese in considerazione anche tutte le difficoltà che stanno attraversando gli operatori culturali di questa città, perché riteniamo che la cultura, soprattutto in questi tempi, nei tempi della paura del contagio, i luoghi di aggregazione possono svolgere un ruolo importantissimo, e quindi la cosa che chiediamo è che questi luoghi possano riaprire innanzitutto il prima possibile, e che ci riferiamo appunto ai club, ai nostri circoli, come anche ai cinema e ai teatri. E in più che venga aperto un tavolo con il comune di Bologna, in cui provare insieme ad individuare degli strumenti che ci permettano di affrontare le difficoltà economiche, ma anche a ribaltare la comunicazione che in queste ultime settimane si è costruita sul coronavirus, perché anche se l'ordinanza non dovesse essere prorogata, il nostro timore è che comunque per molto tempo i luoghi della cultura possano rischiare di rimanere vuoti. Voi sottolineate che già il vostro settore è strutturalmente, diciamo storicamente, così delicato, critico, ci possono essere conseguenze anche per i posti di lavoro? Assolutamente, quello del mondo della cultura è un mondo sicuramente molto, molto vario, è anche un mondo dal punto di vista economico e lavorativo molto, molto fragile, precario soprattutto. In molti casi gli operatori culturali o comunque lavoratori della cultura non hanno delle forme di tutela o di ammortizzatori sociali, per cui è fondamentale prendersi cura soprattutto in questi momenti di questo settore, perché i danni che si stanno subendo avranno delle ripercussioni sicuramente più a lungo termine.